gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to everyone. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Save rock and roll for everyone. Save rock and roll. I gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Gave rock. And I know life sometimes can be a drag, but people, we have been given a gift. We have been given a road, and that road's name is rock and roll. E a lei, Kiss, riascoltati con God Gave Rock and Roll to You. Aspetta che devo un attimo risistemare che il passaggio dei sud mi ha un po' destabilizzato. Allora, partiamo con il Tour de Force. Parliamo di concerti. Naturalmente ancora un ringraziamento a Max per il supporto tecnico. Allora, partiamo. Max Key. Max, il cantante della Rock FM Stars Band, lo Scott Weiland e noi altri. Allora passiamo a parlare di Bad Religion, che saranno il 16 di giugno a Milano al Rolling Stone Rage Against the Machine, 14 giugno a Modena allo stadio Braglia. I Metallica saranno in Italia il 22 di luglio il 22 di luglio a Bologna all'Arena Parco Nord. Gli After Hours saranno il 13 di maggio a Firenze al Sashol, mentre il 23 di maggio al Palasharp di Milano e credo domani a Rock FM. Parliamo del Gods of Metal. Il 27 di giugno Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Rose Tattoo, Apocalyptica, Airborne, Lauren Harris, King Crown. Il 28 di giugno Slayer, Carcass, Meshuggah, Testament, At the Gates. 29 giugno Judas Priest, I Serve, The Inge Malmsteen, Morbid Angel, Obituary, Enslaved, Infernal Poetry e Nightmare. Passiamo al Rock and Field Festival il 26 di luglio all'Idroscalo di Milano con Epica, Halloween, Threshold, Vision Divine, Avantasia, Biomechanical. Parliamo dell'Heineken Jamming Festival il 20 di giugno con Sex Pistols, Linkin Park, Linea 77, Queens of the Stone Age e Iggy and the Stooges. Il 21 di giugno con Matmata, Mab, Marlene Kunz, Vasco Rossi. Il 22 di giugno Counting Crows, Bo Stelle, Alanis Morissette e Police. Whitesnake, Europe e Tiger Tales. Il 23 di luglio a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, Villa Contarini. Rage Against You, tributo ai Rage Against the Machine. Il 16 di maggio al Flare Up Pub di Sori. Il 17 al Music Street Club di Lugnano, di Vico Pisano, in provincia di Pisa. Vediamo altre segnalazioni come quelle che riguardano ad esempio Gio Satriani, che sarà il 10 di giugno a Codroipo a Villa Manini in provincia di Udine, mentre l'11 a Trezzo in provincia di Milano al Live Club. Passiamo anche ai Pancreas, che saranno il 10 di maggio a Firenze alla Flog più il DJ set di Ariel e Max Deriu. Parliamo anche dei Sud Sound System, dei quali vi abbiamo appena fatto sentire un paio di tracce, con i quali abbiamo appena parlato. Saranno l'8 di maggio a Milano all'Alcatraz, poi il 9 e il 10 di maggio a Torino per una doppia data all'Hiroshima Mon Amour, il 16 maggio a Firenze all'Auditorium Flog e il 1 di giugno a Gallipoli al Parco Gondar, il 20 di giugno a Bergamo a Lazzaretto. Chiudiamo con il farewell tour della Rock FM All Stars Band, il nostro tour d'addio a Rock FM. Saremo infatti venerdì 9 di maggio all'interno del Telefilm Festival in Piazza Liberty a Milano e poi il 24 di maggio all'Area Gens di Ponte de Ragello in provincia di Pisa. Il Tour de Force torna credo questa sera insieme a Mox, se lo fa. Rock FM. Allora, prima i The Flappard, ora i Filter con Soldier of Misfortune. Siete all'ascolto di Rock FM, la voce è quella di Edo Rossi. Cambiamo la base e ritorniamo al rock and roll più tradizionale. Allora, dunque, un saluto a Matt da Forlì, che dice: ciao Edo, volevo fare i complimenti a te che spacchi alla chitarra e alla Rock FM All Stars Band e a tutte le band della serata di Russi. Grandi, peccato per la radio. Che cazzo, grazie Matt, che te devo dire, peccato davvero per la radio. Grazie comunque per il messaggio, anche stavo rispondendo prima ad altri messaggi. Grazie davvero, siete stati immensi, veramente meravigliosi a Russi. E poi tra l'altro era la prima volta in Romagna, non sapevamo cosa aspettarci ed è stato bello sentirci assolutamente a casa subito, all'istante, appena arrivati. È stato ovviamente un piacere. Poi siamo contenti, insomma, che ci abbiate anche fatto molti complimenti. Noi siamo molto umili in realtà, quindi voglio dire, qualsiasi complimento non può che farci piacere. Noi non è che siamo convinti di essere una band brava, siamo convinti di essere una band che ci crede, ecco, mettiamola così. Quindi insomma, ogni vostro complimento ci riempie di gioia, grazie davvero. Un saluto al Fanello, naturalmente sei... È ovvio che ti promuovo, caro Fanello, però non so quale grado darti. Monsignor Fanello, da oggi sarai Monsignor Fanello, grazie per il tuo supporto. E ne approfitto, vedendo Fanello e Fanelfo, per mandarvi tutti sulla nostra community online www.rockfamily.it, e lì le informazioni che riguardano la radio, le interviste, quello che stiamo preparando per voi, per quello che sarà la 24 ore piuttosto che anche l'ultima settimana, eccetera, insomma tutto quello che riguarda Rock FM, presente, futuro e anche quando, ovviamente dopo la sciagurata 24 ore che farà terminare le trasmissioni, almeno in diretta, in onda, quelle che potrete sentire attraverso la vostra autoradio, la vostra radio normale, tradizionale. Quando sarà finita questa cosa potrete continuare a trovarci su rockfamily.it e lì saprete cosa tutti i singoli membri di Rock FM stanno combinando. Sono le 18.54, ci sentiamo un bel classico degli Stones prima di salutarvi. Oggi naturalmente puntata così particolare con ospiti, domani torniamo nell'assoluta, tra virgolette, normalità. Poi tra l'altro vi ricordo invece, se non sbaglio, mercoledì 7 maggio alle 18 avremo i Baustelle, con i quali parleremo del nuovo disco. Ma adesso Rolling Stones, questa è Miss You da Rock FM con Edo Russi. Fanno sempre bene alla salute, eh? Rolling Stone, questa era Miss You. Un saluto va anche a Tiziano da Livorno e a Walter da Firenze. Ringrazio tutti voi per essere stati all'ascolto. Ci sentiamo domani dalle 17 sempre su Rock FM. Da Edo Rossi è tutto. Buona serata. A domani.